Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Anche in questa puntata restiamo sulla presentazione del report della Caritas sul tema delle utenze, delle bollette, una delle voci più importanti per le quali si chiede aiuto agli sportelli della Caritas a livello centrale, nella sede di Padova e anche nei vari vicariati. In occasione di quell'incontro che vi abbiamo già trasmesso in versione integrale, lo trovate nella sezione podcast del nostro sito bluradioveneto.it. Ecco, dicevo, in quell'occasione il nostro direttore Guglielmo Frezza ha raccolto un paio di interviste. Alternani è responsabile dell'ufficio studi di Caritas Italiana. Questa ricerca mette a fuoco, illumina un dato che è importante anche a livello nazionale? Sì, è il primo esempio di un rapporto sulla povertà di una Caritas diocesana che si sofferma sulla povertà energetica. Cioè sulla povertà che ha a che fare con la difficoltà a pagare le bollette, soprattutto per l'elettricità e il gas, il riscaldamento. È un aspetto poco studiato, poco dimenticato, è un effetto della povertà complessiva, così come c'è la povertà farmaceutica, alimentare, c'è anche la povertà energetica. Questo soprattutto nel nord può avere un certo senso, naturalmente. E in effetti i dati dell'Istat ci dicono che il 6% delle famiglie del nord Italia è in una situazione di povertà energetica, quindi non riesce a pagare sufficientemente le bollette di gas, elettricità e riscaldamento. Quindi è un testo sicuramente interessante, apripista, che mette in luce anche la difficoltà che abbiamo in Italia di avere una misura di contrasto alla povertà diversa da misure a goccia e a pioggia. Le politiche di liberalizzazione nei servizi pubblici di questi ultimi anni, secondo te, hanno in qualche modo peggiorato la situazione? Diciamo che si è creata una pletora di soggetti erogatori così complessa e diversificata che non si riesce più ad avere quel controllo della situazione, quindi anche di tariffe sociali, tariffazioni e controllo delle tariffe che c'erano in passato. E quindi c'è la lotta di tutti contro tutti. In questo senso le famiglie in difficoltà fanno fatica ad avere quel riconoscimento a una tariffazione sociale, a un bonus che prima in passato era più facile ad avere. Quindi adesso esiste la soluzione del bonus gas e bonus elettrico con delle domande, una procedura che va comunque garantita sotto un certo livello di reddito, e quindi da una parte si crea concorrenza e si abbassano anche i prezzi, dall'altra parte le famiglie in difficoltà continuano ad avere difficoltà. Dunque è un dato importante in uno scenario però che è molto più complesso. Tu giustamente ricordavi prima l'importanza di non limitarsi a soluzioni a goccia o a pioggia. Ecco, da poco l'Italia si è dotata di un nuovo strumento universale di contrasto alla povertà. Siamo nella giusta direzione? Che cosa ancora manca? Che cosa concretamente si possono aspettare le famiglie più in difficoltà? Dunque, dal settembre del 2016-2017 noi abbiamo in Italia il SIA, quindi è possibile richiedere un sostegno per le famiglie con minori. Caritas Italiana, facente parte dell'Alleanza contro la povertà, è favorevole a questa misura, ma ne osserva anche un limite, ossia la categorizzazione è riservata ad un tipo di povertà. Sarebbe più opportuno avere una misura che prendesse in considerazione il reddito della famiglia a prescindere da situazioni specifiche, altrimenti si crea una lotta tra poveri. Gli anziani sono esclusi dalla misura, ad esempio, o i disoccupati di 50 anni che poi hanno perso il lavoro, anche perché le famiglie con figli minori ormai in Italia cominciano a essere abbastanza poche. Rimane comunque la necessità di ripensare complessivamente il sistema, anche quello fiscale, per dare un'attenzione, uno sguardo diverso alla famiglia o no? Assolutamente, diciamo che sicuramente l'ISE, così come il nuovo ISE è stato creato, sicuramente ha dei pregi rispetto al passato, ma non abbiamo ancora quell'approccio family friendly, possiamo dire, che si vorrebbe avere, soprattutto in una situazione in cui c'è una difficoltà alla genitorialità e alla natalità. È anche vero che non è soltanto una questione fiscale, ci sono molte famiglie così povere da non poter proprio fare la dichiarazione dei redditi, e quindi sono le cosiddette famiglie incapienti. Quindi un doppio binario: da una parte una tassazione più attenta alle esigenze delle famiglie, ma dall'altra parte anche un occhio a chi non ha proprio la possibilità di dichiarare. Francesco Iori, giornalista, è stato anche vice direttore del Gazzettino, sta accompagnando in questi anni la Caritas in questo lavoro che è di lettura dei dati e delle situazioni che emergono nel territorio. Ecco, ti chiedo, Francesco, uno sguardo un po' al passato e anche a questo ultimo report. Come vedi che sta cambiando la situazione? Beh, sta peggiorando, e soprattutto sta peggiorando rapidamente, nel senso che nel giro di 3-4 anni abbiamo visto non solo l'esplosione della povertà, ma anche l'esplosione della presenza italiana. significare che ci sono dei problemi molto grossi, molto complessivi, e ridurli soltanto a una questione di immigrazione o no è molto riduttivo, ma anche non porta da nessuna parte. È il lavoro o l'emergenza il nodo cruciale? No, non direi. Il lavoro semmai è un fattore che può accentuare. Io vedo il nodo cruciale nella rottura delle relazioni, nella debolezza e quindi nella rottura delle relazioni, che certo è agevolata in larga parte dalla crisi economica, dalla mancanza di lavoro, ma c'è qualcosa di più complessivo. Abbiamo perso un collante sociale e stiamo riducendo le persone individui. I più deboli sono sempre di più, ne risentono. Le nostre parrocchie, a tuo parere, i nostri vicariati, attraverso i centri d'ascolto della Caritas, ma non soltanto, come si stanno muovendo, che ruolo stanno giocando, che tipo di consapevolezza stanno maturando? Si stanno muovendo benissimo per quello che è nelle loro possibilità, però io vedo un problema più complessivo, cioè è una risposta necessariamente sulla difensiva, si risponde a dei bisogni, i bisogni aumentano e le risorse diminuiscono. Bisogna cambiare rotta, bisogna che le istituzioni pubbliche prendano atto del loro dovere, della loro vocazione e la smettano di rifilare, di addossare, di scaricare sul volontariato questo ruolo sociale, spesso oltretutto con cattivi rapporti col volontariato. I comuni, le regioni e lo Stato non dovrebbero dimenticare che se non ci fosse questo volontariato avrebbero la fila delle persone a urlare sotto le loro finestre tutti i giorni. Non riuscire a pagare una bolletta che cosa significa? Vuol dire essere ridotti veramente all'estremo, perché il mangiare, l'alloggio, il vestire, il curarsi si rimedia, ma quando non paghi una bolletta ti tagliano i servizi e ti ritrovi davvero su una strada, ti ritrovi alla canna del gas, per usare un'espressione figurata ma che rende proprio l'idea. Ti abbiamo ascoltato anche alla presentazione della prima tappa del progetto dei cantieri di Carità e Giustizia, voluto dal Vescovo Claudio e dalla nostra Chiesa, proprio per cercare di dare una risposta complessiva a questo tipo di problemi e riattivare le comunità locali, la società civile e la politica. Come sta andando avanti? Sta andando avanti molto bene, proprio perché cammina piano. Le cose concrete si fanno a piccoli passi, perché non bastano le belle idee se intorno non si crea la necessaria condivisione. E perché ci sia condivisione, prima di tutto deve essere la presa di coscienza di qual è il problema oggi. Quindi credo che questo percorso vada proseguito assolutamente in tutti i modi, senza perdersi d'animo quando si presenteranno i necessari, gli inevitabili intoppi e le difficoltà. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.